un momento di luce, un momento di amore, e poi viene la notte, e poi viene il dolore, ma ti basta di chiudere gli occhi per vedere quel che tu vuoi vedere. Cerchi solo te stesso in un viso qualunque, e alla fine del viaggio ti ritrovi più solo. Ma ti basta di chiudere gli occhi per vedere quel che tu vuoi vedere. Una vecchia chitarra che ripete un motivo e ti fa ricordare, ti fa piangere ancora. Ma ti basta di chiudere gli occhi per vedere quel che tu vuoi vedere. Ma ti basta di chiudere gli occhi e ritorni a vedere qualcuno. La la la. Di amore, e poi viene la notte, e poi viene il dolore, ma ti basta di chiudere gli occhi e ritorni a vedere qualcuno. Ma ti basta di chiudere